c'è Franco e Marcosio, c'è Gio Maria. E tu? Vai, vai, anche pure io lì, vai. Vai, io ci metto il barattino. Ah, se rimani qua, via, attivo, vai. Wow. E lei, lui, combinando. Quindi però no, no, no. Siamo di rispetto, sappiamo come rispetto. qua, è un me, un me, un me, un me. Sì, io lo so, anche qua è così, non è che non si crede che sia debole qua. Cappa, cappa, siamo chiamati a finale. Sono prova e niente, ho fatto da grandi cigaretti, ma più so per una fatica, ma non basta da rimanere, però piano poi ce l'ho fatta. Sì, ce l'ho io, Gianni. Più tardi è 3:30, era. No, Gianni, non ricordo se c'è anche Franco, se c'è anche Franco. È Salvatore, se non sbaglio. Sì, forse ce l'ho pure io. E poi sono a casa di Franco, per il caffè e portargli una capsula, sono andato. E niente. Chiudo l'altra, mi sono assicurato. E quindi va a tanto la rana più facile. Bravo, la prova è la mia. È quello che stai dicendo, convinta che è attaccata bene al muro. qualche problema. Ruia. Va bene. No, quella c'era prima la propria, a Bricio si annoia, noi aveva 20 anni, io c'era ancora a Bricio. Vabbè, comunque sia, è quella della tua, quindi ce l'ho vista, è abbastanza triste. Ma se non mi lungo i tetti, il tirante quello più lungo, che non è solo un sacco più su, è a tiro, è un po' si riattrista. Ma quando si tratta di 2-3 centimetri, cosa vuoi sia, non è niente, non, cioè, sono due di due strade, che una sporge di un centimetro più dell'altra, sia di fatta di farlo, tu hai 3 metri di farlo, 4 metri da tornare. E vabbè. Sì, ha un po' di la perfezione. Secondo me stavo macinando con l'estate, non sono sicuro. Devo salire a vedere un po'. Perché la prima un po' si muovono, ma appena appena, non è stata più inchiodata. Right. attenzione, sono due maschi accesi. È più il rosso, insomma. No, no, è tutto illuminato, Facciamo base. va bene, va più che bene. Allora, l'ho cambiato anche lo spinotto. Tutto l'ho cambiato, va bene anche lo spinotto, ce l'ho qua, mi è rotto. Aspetta che è tornato rosso, comunque va benissimo Daniel, va benissimo. Ciao Curcio! Sì, aspetta, vedi c'è una persona, aspetta che sto uscendo, dai. Ciao Curcio! Aspetta, mi senti Luca? Ciao Curcio! Chi sei? Daniel, mi hai riconosciuto? No, non va più, chi sei? Come te lo posso spiegare? Diciamo che siamo vissuti quasi assieme, dai. Thank you. mi stavo provando un macchino di Nuno Ricco, se ne è appena andato, tutto ok. Ma quello di cosa, di Marco? No, non è amico, non lo conosci. No, solo mi sa in camion. No, meglio funziona. Sì, per come la prima, certo che funziona meglio. L'ho cambiato il cavetto, il microfono. I figli sono andati meglio, c'è una gaggata. Poi se ci sono problemi, non ci sono, non riporti. Lo sai che manca è? Vabbè, sono lo Zodiac, 50, no, 40, 50-40. Ah, quello che stavo dicendo io, no, pensavo fosse un altro questo. Gappa, no, già va bene. Non rimango, non c'è venuto a fartelo vedere? No, negativo, no. Negativo, Rob, adesso non ci soldi, cosa viene a fare, viene a muovere. Ok, ho cominciato la mascherina del microfono fatta nera, il bordino era più argentato, se nero. Ecco cosa l'hai fatto? La bomboletta. Me l'hai messo il nastro tutto in giro o l'hai smontato? No, il pezzo l'ho smontato, io cosa l'hai messo il nastro. E dico, va bene, Rob, lo sai, che... Insomma, per il libro già è. Lo del mito, la sta dicendo. Siccome ne ho due, ne ho uno di scorta alla carcassa, quello della carcassa. E lo provo, adesso lo provo. L'ho forniciato, l'ho piazzato e... Dico che ci sta bene. Sì, già, il nero già sta bene con tutti, è un colore che sta da tutto. Io usi una spuntatina, però, se tu hai dato un po' di fondo, usi di stoppare. Già va bene, viene poi il buco, il muro. Poi, quando sarà, mi prendo una bomboletta buona. Le opaco e faccio i tappi di nuovo, me li dico bene, perché sono tutti macchiati con quel cavo di pannarello. Ma i tappi o la cornice? Dove devi verniciare? I tappi. Ma quello che ti ho verniciato io? Ma non è che roba che li ho macchiati col pannarello che metto tu di usare. Siccome l'ha rotto e non l'ho trovato nelle mani, come se avessi smontato il baracchino, l'ho tutto macchiato. Infatti lo stavo levando con la chiappa un po' e gli ho levato un pochettino di vernice. Vabbè, io me li costruì piano piano. Adesso mi dice a bel tempo. Guarda, mi compro la bomboletta e gliela faccio. Ma io la sua macchina leggera, tanto per coprire i difetti. Tanto se gliela faccio la bomboletta. Infatti, è vero, sì. Una passatina leggera, è vero, bravo, una buona idea, peraltro. Io li volevo verificare. Leggero, se non l'hai intaccato in profondità. No, leggero proprio. Pensavo che non usciva, vabbè che era fresca, la verniciata che era asciutta. Non dico che mai toccavano le mani, rimanevano l'impronta, però. Sì, l'ho passata così e buh. Faccio asciugare bene e ciccia, lo lascio così com'è. Per come era prima, va più che bene adesso. Allora lei l'ha passata leggera, senza esagerare, senza fare troppo spessore, perché quello del bombolette, il materiale è una cagata, se no ti scioglie tutto, lei ha proprio una velatura per coprire dove c'è caduto l'acetone. Ha fatto il break quel ragazzo, quell'amico, poi non c'era nessuno, poi è stato tutt'io. E niente, stava andando bene, ma la macchina voglia. Cappa. Radio chiarissima, meglio di questo esce. Chi ce l'ha adesso quel Zodiac? Madrono. Non mai te l'ha dato, ma a provarlo, cosa ne dobbiamo fare? Non ho vinto il filo. Usciva male, ti preoccupo di radio, ma è male. E poi c'aveva praticamente il cavo ossidato. E in più c'aveva la capsula dentro il microfono, invece se era al posto suo, normale, era girata al contrario, per quello usciva male. Che se c'è negano allora, per forza che non funzionava. Avete tre canali nel Zodiac, o sbaglio? No, 40. C'ha McKee, ma McKee non è, perché squadra c'è il volume, basta, è il coso della mappa dei canali. No, ma le voleva andare con a me e Salvatore, quel figlio di mio padrino, quello che sta andando una mano a Natalino a studiare, 23 canali, mi voglio a 50 euro, giusto a vedere da Marco. Ti voglio a 50 euro il mobico. Siamo amante, intanto vogliamo vernicciare, ma è nuovo il baracchino. No, scusa, non 50 euro, 50 euro, 25 euro volete. Vai a gaggare il baracchino. Ma non c'è la Smith va a LED. Ah, Smith, ma non voglio mai con il microfono. E cosa ne fai? Guarda, così a capo. No, all'inizio quando proprio stavo iniziando a parlare, hai detto buscamene un aspetto, io il Zodiac, c'ho un Zodiac 23 canali, 1.050 lire, te lo pure. ci fa il suo mano. Già l'ho conosciuto al bar, c'era Flavio e Vassalino con lui. L'hanno chiamata Claudio e sono venuti al bar. Sì, io lo conosco. Cava cava, e la battuta stasera? No, ho già detto tutto adesso. Allora, stavamo giocando con la squadra, poi giocando da sotto d'ora e sono andato a vedere il negozio dove lavora Gianni, e tu ci hai detto lo trovo, ho fatto la spesa a vedere se conveniva a comprare, i prezzi sono abbastanza buoni, non me l'ha riuscito, buca niente. Gianni c'era? Non l'ho visto, non so se era in qualche altro reparto, di lì il reparto diciamo alimentari non c'era. Gappa gappa, è sicuramente male, lui lavora, ma è stato nel posto giusto. E lui l'ha detto di lì, a coso, a Porto Torre, io sono andato in Chivi ai Granai, però non so se non era in ferie, perché dice c'è una mezza giornata di ferie, non so se l'abbia presa io o oggi. Gappa gappa, non lo so, ma non conviene andare all'Eurospin, no? Oh, mia madre è andata sempre all'Eurospin, a me non mi piace, io ando sempre a Multinegro a fianco a casa. Ti prego un attimino, ti mettono la roba nella spesa, te la caricano, no, ti fai vedere tutto vecchio, non fai nulla tu. In 10 minuti ho finito. Ah, io siete da bravi, siete da bravi, finisco al vecchio, sei due. Mi avete svegliato, cosa volete? E dico il numero di telefono? Non te lo sai in tutti, basta guardare la cosa telefonica. Hai finito, Roberto, di rompere le scatole? Eh? Beh, Natale. Ciao Roberto, ciao Luca. Ma adesso mi sto scrivendo tutti con la... L'ho finito, non mi guardate, boh, basta, sono gribato. Adesso mi sto scrivendo il logo il computer, tutto quanto, me lo ricopio. E bella, me la stampo. Così con la penna ce lo butto. Ma ti stai facendo la quacelle, la cartolina tua personale? No, quella l'ho già fatta. Mi ha spedito una salvatore che mi devi dare a QSL perché l'ho sentito parlando in banda radioamatoriale e non mi ha spedito a Franco. Così la vedo. C'ho un libro io del radioamatore del CB, c'ho una sacca, ce ne sono un bel di QSL per farle. Vabbè, ma io me la sono personalizzata, io gli ho messo lo stemma del comune di Sassari, la bandiera sarda, il mio nominativo e dietro gli ho messo la... come si chiama, tutto quello che bisogna scrivere, là. Dove va, uno fuori Blattamone a buco, così va a vedere tutta la strategia. No, di oggi io ci metto un tempo con un 440 a fianco, davanti. Già è bello avere una cosa del genere, è carino. Ma ne ha già mandata qualcuno oltre a Salvatore? A Salvatore l'ho mandata a cosa? E a Franco. Ma non gli ha detto niente? No, non ne sanno. Gliel'ho mandata stamattina, per due. Ma c'è il nominativo tuo, lo sa loro il nominativo tuo o non hai scritto nulla? No, è stampato il nominativo mio. E poi dietro c'è scritto nome, cognome, via, tutto quanto, no? Il locatore di dove siamo, tutto quanto è scritto, no? Allora, pensavo l'avevi fatto anonimo, senza scrivere niente, ne avevi scritto soltanto il nominativo senza l'indirizzo. No, poi il coso SVL, il mio nominativo, l'ho fatto rosso e blu, in modo con i colori di Sassari, ma avanti è tutto. Ma il cartoncino l'hai stampato, e poi l'hai fotocopiato, cosa hai fatto? No, il cartoncino l'ho stampato. Ho fatto una cartolina praticamente. E quella è memorizzata nel computer? Beh, mi va a me. Così non devo stare giù perché non lo so. Se no, per favore, ti ne avessi fatto una a mano e poi ti fare fotocopia a colori o come anche voi. Ah, no, tutto col computer lo fa. Sì, ormai col computer puoi fare quello che vuoi, se ti basta ti trovi qualche programmino di grafica, ti puoi disegnare tu su di piatti. Poi ti scannerizzi magari una radio, cosa vuol dire se la buoni in mezzo. Macchina digitale, se no gli avrei messo una bella radio nel tanto sono che lo scanner, quindi gliel'avrei messa lì la radio, nella cartolina a fianco, c'è un po' vuoto. Riprendi tu. Via, ciao Natali. Kappa kappa. Io non ho vista una. Praticamente una cartolina, c'è una foto, giusto Natali? La tua stazione, giusto? No, quella era una fotografia con la stazione, non era una QSL quella. Ah, pensavo che era una QSL. No, già te la faccio vedere la QSL, il nome di Claudio Guai, è che ancora non l'ho sentito parlando con nessuno, se no gliela mandavo. Salvatore, ti ritorni a di QSL? Sì, Salvatore fa i collegamenti lui, per forza ne ha più di me, capito. Bezzanni, di tu? Ah sì, vediamo questo se sentiamo Claudio, così almeno segniamo l'ora di tutto e li mandiamo la QSL. Ma Salvatore me l'ha fatto vedere, c'erano due album di cartolina, cazzo, sono veramente belle, di tutti i tipi, ne erano veramente spettacolari. E dalla Russia, ne ha, dalla Grecia, da ogni arugu, Stati Uniti, e qua ha collegato mezzo mondo. Ha fatto vedere il muro qui, dell'Antartide, il muro. E quella dell'Antartide, è una fogoia. E qua lo stavamo perseguitando a quello dell'Antartide, di brutto. Ma c'erano tutto il mondo perseguitando a quello. Ma ci siete riusciti a collegarvi, perché dice che è una cosa un po' particolare collegarsi con quello. E una sedizione era che è costata un mucchio di soldi. Non è così, no, a collegarlo. Bisogna aspettare il momento buono. E un bedigente che sta impianto anche meglio del mio, con tutte le direttive, e non può riuscire a fare nulla. Non è questione solo di potenza, lì è questione di antenna e di allineamento esatto sulla posizione, no? E anche di fortuna, quando escono sa che devi essere lì a fissicarli. Ma dimmi un po', ma tu l'antenna ce l'hai col motore, ce l'hai col rotore, ce l'hai o fissa? No, diciamo che ne ho due antenne, ma non sono piazzate per metterle col motore. E il motore mi serve. Allora già me l'avrei piazzato, mi aveva fatto roba di gonfio con quelle due antenne favolose. La giurito, quando un ghiaccio, quando c'è un po' di vetro nel tempo, ve lo faccio vedere io. Con un'antenna direttiva cosa riesco a fare? C'ho un impianto che me l'ha rimasto motorizzato, il primo motorizzato che ho avuto, cioè c'ho il motore, c'è il rotore, però fa solo 180 gradi, no? Vabbè che non me ne fotte di più. E c'ho l'indicatore, l'interfaccia digitale con i gradi pure. Già lo so. No, ma io non me lo devo comprare il motore. E devo anche stabilire dove piazzarle. Una 11 elementi per le V e una 10 elementi per le U. Allora adesso voglio provare nella banda cittadina a vedere quelle zone che sono scoperte, la faccio in modo che lavori sulla zona, la mia lenza, diciamo, la zona di Castelsardo, quelle zone lì, dove il segnale mio in ricezione è molto scadente, voglio provare di lì. Una cubica ti conviene fare, una cubica due elementi, dalla 27, così almeno. Devi farla al 10% più grande quella di dietro, per fare da scudo, diciamo. Confronto al direttore deve essere più grande del 10%. Ma non è che ne sono capitati a te i pannelli, cioè tipo l'antenna televisiva, cioè mettere un dipolo dietro del pannello, il riflettore dietro, non ce ne sono progetti del genere, molto direttive visto le antenne. Ma non te ne fai nulla, per queste frequenze qui vanno in orizzontale, cioè, perché quelli che trasmettono in doppia metrica, poi si vengono verso il dipolo di una parte già, quindi di meno il tipo è assolti a tutti gli altri. Io sono un dipolo enorme, però è multibanda, va fissa. E quante bande ti fa quello lì? Fa 10, 15, 20, 40, 80 metri, più le bande adiacenti, un 10 bande farà. Ma cos'è, autocostruito questo? Allora io me l'ho costruito. Un dipolo filare o sei però un dipolo in alluminio, cioè con i tubi d'alluminio? No, filare, sono stato in alluminio, sono stato in urelli, una carica di fiuglia, capito? Vabbè, io continuo a fare il logula, che sono riuscito a fare il tutto, sempre al computer me lo fate, perché quello lo devo mandare là per il diploma, sono già questo diploma, solo che me lo voglio fare per quest'anno là, anche. Questo libro che ti stanno dicendo io, ci sono tutti i diploma, ci sono le fotografie di tutti i diploma, dal più semplice sino a quello americano, quello più ambito, che devi collegare, non so quanti continenti, non mi ricordo come si chiama, la fotografia di Salvatore, ci sono tutti i diplomi, per dire se uno se li vuole fotocopiare. Guarda, io ho quello del GIRS, radioattori ferroviari, io sono italiano, radioattori ferroviari, guarda, tu lo dovresti avere allora se c'è quel diploma, io ce l'ho qua, incorniciato, e me ne arriva pure un altro adesso, perché gli mando il log, la QSL e tre mandelli. Lo sarebbe collegare tu per avere, come si chiama, quello lì? 80 stazioni di collegare, io l'ho collegato anche vicino, ho fatto punti, ne ho fatto di più. Vabbè, non pretendo di essere classificato bene quest'anno, nel 2003 sono arrivato nono, e anche perché mi è successa una cosa che all'ultimo giorno, proprio le scaleva, non ho potuto collegare, capito? Però sarei arrivato prima. Ma loro a livello nazionale sta parlando? A livello nazionale, allora, non in tutta Italia sono arrivato. Capo a capo, una cosa importante. E cosa? Ma il consorzio lui ne fa collegamenti? Quello se ne fa andare o non gliela fatti nulla? Quello collegato col mondo. Sì, sì, no, lo so che è uno dei più furti che c'è in circolazione. Lo dico, si fa mandare le QSL o lo fa solo così, collegarsi senza nessuno scopo? No, si fa per le QSL, si fa. Tutti si fanno mandare le QSL. Adesso Salvatore, come vede la mia, me la deve mandare, per forza. Capito? Lui le fa da radioamatore, io adesso più QSL. Capito? Infatti da me c'è scritto SWL, c'è scritto nominativo e scritto. E il nome e tutto quanto nel diploma, se guarda Polonia, ci dovrebbe essere lì, diploma GIR, si chiama Golf India Romeo Foxtrot. Mi si capa, quello c'è, sono sicuro. Comunque di Marco Scorpio ho sentito che lui è uno dei pochissimi che ha collegato la MIR, è vero questo, no? Sì, sì, io non lo so se lui l'ha collegata, ma l'ha collegata Antonio insieme a me una volta. Però avevamo due direttive costruite da noi proprio per i fratelli. No, me l'ha detto uno, una persona sicura, dice, uno dei pochissimi è riuscito a farla. E tu anche la Luna ha usato come cosa, come riflettore. E questo non lo so. Però in Antonio abbiamo collegato la stazione spaziale. Di brutto. Ma chi ha tutto riserva, Tarice? No, un altro amico radioattore, da qui. Cappa, Salvatore Burredo, che ha questa soddisfazione da stare presente lui. No, a lui gli piace più fare di ex, capito? A lui gli piace fare di ex, sempre collegamenti a lunga distanza. Fa contest, fa tutte queste cose gli piacciono a lui. Ed è molto attivo anche su queste cose. Immagino un paio di anni fa, la vara da Patamola, la Dorletta, ne ha stato con un palo telescopico, ha fatto un certo a collegare, adesso non so chi avrà collegato, pure una volta l'ha già saputo sopra il quadrato con le Gendi, poi su a Usio è salito sui ripetitori, no, già si diverte parecchio, insomma, sempre con tutta l'attrezzatura in macchina. Siamo andati anche io e lui a Usio per fare una direttiva per un contest, capito? Siccome si voleva lo spazio libero, allora abbiamo preso un palo e abbiamo tarato lì, perché dovevamo spostarci con la macchina per il contest e quindi l'abbiamo fatto con quella direttiva lì. KK, riprende Luca? Io la riprendo, ma sono un po' di corrida. Tanti mezzi da corrida, no, ogni tanto la guardo così, ma tagliando dove è più corrado, a me mi va a girare di dietro, corrado era un piscio, solo a guardarlo mi veniva a dare di te. Quella era di vista. Vabbè, riprendete voi là che mi scrivo, tanto la margine a che cosa, di lei, sì, no, non penso che ne fossi molto, va. Fa fai con comodo, dai, riprende Luca, dai. No, magari va. Non sono benissimo proprio, tutti molti sono, tutti ammalati e sono andati, ammalati da un freddo. Infatti sono come la da rumare, per rumare molto, scatta ogni freddo, ma c'è un vento, un girito, e un freddo, mamma mia, un vento che ne tiene rampa in terra, ma male che l'antenna non è molto alta la mia, se no me ne avvia rampa in terra, ma hai visto il vento che c'è? Sì, ma è anche la mia già è bella, non se l'hai vista, una piazzata, ma già piena, furia. Capa, no, vabbè, ma quelli che hanno quei pali alti di 10 metri, io mi ho messo quando me ne c'è già con la della radio, 13 metri di palo, ma mi ha mollato il tirante, si è troncato in due, il palo si è troncato in due. salutaggio a tutti. Meno male che non c'era nessuno, cioè è caduta sul terrazzo. Se ne piace iniziare a ammazzare anche duro. Tu ne hai quanto pesa un'antenna a 13 metri di palo con 4 direttive. Se te ne cadendo addosso ti ammazza. Come ti piazzata con la gru? No. In due l'abbiamo piazzata, a telescopico. Sollevato piano piano con i tiranti, due serie di tiranti. Ci vuole terrazzo grande lì, se no metterà così, e lo si è fatta apposta, cioè volevo essere un terrazzo grande. E in altri posti lo puoi mettere, tipo casa tua, mamma mia. Casa mia, ma non male che c'è lo spazio, il terrazzo che si può fare, ma diciamo la mela è un giocattolino, non si deve vedere antenne, arrivi su questi impianti di antenne che ti metti le mani in testa, ogni traliccio 18 metri di traliccio, ogni cosa non la bruciano, quei. Poi si chiamano le gru, quelle per costruire il palazzo, e poi lì ci mettono tubi grossi sopra, burronati. Beh, se lo fai, lo fai bene. Noi non ci piace non mantenere il baracchino, stai tranquillo che lì ci vuole, ci vogliono tiranti fatti bene, corda grossa, ma grossa però. Allora sì, un cavolo che mi impara. A me mi ha fottuto lo sempre che ho usato quel cavo in acciaio rivestito di gomma, quello per prendere. Se va al cito lento, se trunca un tirante ne farà altro. Poi lo so, Roberto, molto. Ma ti dico pure, se un'antenna ti parlo, anche se è tirante, al palo sottile, stai tranquillo, ve lo metto tutta la piega. Questo è poco ma sicuro. Se c'è un palo grosso, buono. Ui! La mia! Guarda questo ne ha fatto, ne ha fatto. Se fosse stata lavora prima, guarda, non dico al 100%, ma fai al 70% ne sarebbe caduto. Ma il discorso è l'importante che i tiranti lavorino bene, Luca. Io ho visto delle antenne di 40 metri, non so se sei andato tu con le stazioni radio, se te le vedi ti metti sotto, ma quanti vasi a reggersi questa studia? Stanno tutti i tiranti calibrati, tutti a misura, perfetti, non ce ne non succedono i problemi, quando ne è uno lungo, uno corto, sono tutti dalle stesse misure, ancorata bene, non ho visto a fiume santo quei tralicci che ci sono eolici. Ti vuole rimanere in campo 60 metri di traliccio e tutto riguarda, ma quanti vasi ne rimane? Solo sono piazzati a regola d'arte. Non è che puoi piazzare una cosa così, no? Così, i tiranti ci vogliono, facciamo così ma ti aiutano. Secondo dove picchia il vento, i tiranti lavorano e ti aiutano. Se tu metti i tiranti, infatti Claudio non ne voleva mettere, tu muovi i tiranti, anche a parte che te la fa più, sembra una super antenna. Guarda, lontano si vede che queste corde. Ma almeno ci siano sempre, che lavorano e diciamo che te la tenere stabile l'antenna, poi rimane fermo. Forse utilizzare un palo buono, a me mi ha fottuto che ho usato quei pali telescopici, io li devo fare in lunga, cioè sono fuscelli. Penso che c'è adesso un palo d'acqua, se lo vedi il ghiaccio da 2 mm, il bocco è grosso. Ma mio, quello lì, guarda, se tu, quelli che la segnalistica, però sono così grosso, il mio è così grosso, è zingato, quello che c'è il piantone, diciamo, e l'altro che sono anche su un tubo d'acqua, perciò usci ubici, via. Ma la mia è tutto predisposta, gli ho fatto queste staffe che si rivede di muovere le mani in capo, ci posso mettere altri 8 metri di palo se voglio, tutto telescopico, è già tutto predisposto. Poi, ma l'unica cosa è fare i tiranti ben fatti, perché il palo posso salire anche altri 8 metri se voglio. Maga, ma già va bene, già va bene, le ho viste le staffe, le ho viste, belle, c'è un cavolo di droga nei issi, ui! Cosa volevo dire? Arriva la notte non ti fa cadere l'antenna, ma anche i tuoni, i lampi e i tuoni, non fanno il danno. Sì, stanotte, sicuramente stamattina, ci ha portato le 4, così, le 5, che erano. Sì, c'erano state le 3 di notte, le 3, le 4, magari non l'ho visto, però non ti fa cadere subito l'antenna, non ti fa cadere, si scioglie il tutto, ogni lampo, per un terrore mi sciogliano qualche cosa, così quando vado la parabolica, le hai viste quelle antenne che c'ho? C'è un battimento adesso. Vai. C'è un splatter. Che cosa? Aspetta, c'è gente sul 20, adesso sto accordando. Luca. Via. Ma tu sei sul 16 16, chi era fiscato sul 16? No, non so, no, non ero io. E c'è gente fiscato sul 16, spostati. Io lo sento. Stiamo all'acchino per nome di Mondessa, ma un bel però, ma. E beh, non ha cercato nessuno. E beh, lui. Adesso la cosa sta accordando sul 20, allora quando si darà qua? Sul 20, no, sul 16, stava fiscando sul 16. Che è da quello nell'ondaggio lineare rosso, che tu l'ho ascoltato sul 16, ma magari era sul 20. Che è nulla, Ma adesso come adesso? Sì. Lo strano. Ti fa... cioè, aspetta, va qua vicino qua. Mi fa la mattina che c'è nulla, perché è più forte lui in vicinanza. Non so come la chiamo per nome di Mondessa, ma un bel però. Ma qua era fortissimo, ma era sul 16, lo sentivo fischiare. Sì, io non so chi era. E Mario Manzo, non si è sentito? Boh, no, stasera no. E vabbè, stasera verso le 3:30 c'era. E boh. Dopo il visito di Manzo, non hai visto la Schumacher, hai fatto da tutti. Cosa? Che Schumacher? Ma che rimane da tutti, primo Schumacher, secondo Massa, un secondo e passa gli ha lasciato le Renault. Scappa. Gli andava allora. Le due Ferrari, prima e seconda, gli altri meglio di così non poteva ricominciare. Ma Briatore, non un buon subito che su Briatore non si può fare, se non è morire la vita, già. Guarda Romè, detto Romè. Che non li posso vedere a Briatore e a Fisichella, due con Ventone, avere già vinto un mondiale se li lascia vivere. Se ne gatta con l'altro, ma ero triguglione. Aspetta, se... A me ancora si sentono gli slatter. Questo, una qui c'è una battaglia. Più selettivo, visto, così. Questo è più serio, molto più serio. Poi anche se riprendo poco a poco, che io le refere io non sento più. Gappa. Questo è un gioiellino. È un gioiellino, va benissimo. Qui sarebbe più, tu hai buttato. Quindi così dove ce ne hanno più 10. Ehi, caro, ma se c'è 15, dai, non più 15, se. Due. tipo Franco del Tauro è nato qua, si può dire. Tino Offesso, quelli conosco, ci conosciamo da piccoli. Poi il resto a Franco abitava vicino a casa, vabbè, Franco California. Poi il resto sì, li ho conosciuti tramite baracchino, da Claudio, Gianni e tutta. Antonio li ha tutti conosciuti col baracchino. Sì, ma Antonio vabbè stava lì al Mar di Ita, sì, però non si dà, poi la tipo Silvia, che la Silvia, io la conoscevo la prima, Roberto Fresh, conoscevo la prima, Roberto Banditore conosciuto, sì, però non si dà. È meccanico, Roberto Meccanico lo conosci? Ah, Roberto lo conosco, conosce da piccolino Roberto. Sicuramente lo conosco, perché me l'hanno detto, del meccanico, diciamo, il più importante di Sassari già riconosco, sicuramente secondo me lo conosco. Sì, poi siamo di bianco, comunque ero un grande, lo dice che Roberto, sì, che ho fatto tantissimo nel suo matrimonio. Ma ti ha parlato in due, Franco e Luca? Con lui? Eh? Beh sì, ho fatto tantissimo nel Roberto, sul matrimonio. Anche Roberto? Roberto bambino. Ah, tu l'hai fatto? Con quella tipa là? Okay. Non usa più, non lo sapevo, guarda. È una cosa che sento. Sì, l'ho fatto tantissimo. Sì, ma un po' scende sempre. A me scende, passa sempre a trovare. Qui ci sentiamo per telefono. Va bene, allora ti prendo dopo che devo andare un attimino a telefonare. Daffa, ti andare a fermi l'occhio. E la compagno Luca, lo conosci? Dappa. Questa baracchina l'hai conosciuto? Dappa, io non la conosco un bello di tempo, lì. Avevo 10 anni, là. Sì, dico, ma ha conosciuto il baracchino, tutti gli altri? Sì, beh, secondo me. Dai, ti trovi, eh? Sì, questo è bomba. E un G, si fa un G, non è che... Poi gli altri, io ce l'ho per ciucca, ci troviamo, ti conosci, no? Ma è il fratello di mio cognato, di Luciano. Io Franco, non guardo il baracchino, o sbaglio? Daffa. Come si faceva a chiamare lui? Non lo ricordo. C'era pure la terra sul tetto. C'era la terrazza, non sul tetto. Mi canta la via. Buona stella. Ma vita, ma aveva detto da lei da loro, come mai, no? Daffa. Come mai si sia sposato, o sbaglio? No, non lo so. Ha detto la verità, non lo so. No, no, forse mi sto sbagliando. La sorella si è sposata e Luciano è basta. Non so, Roma. Sì, prima veniva casino, a casino. Via, via. Roberto. Prima si era visto in via. Ma di cosa non è chiuso di Luciano? Non vedi, non esiste più che su va. Ma ha fatto tutto. Sì, ma non c'è, cosa c'è adesso di lì? Hanno buttato tutto, ma non c'è più nulla. Però non abitavano sopra di lì. Tutto l'hanno buttato. Una volta che non sono presente adesso. Tutto quell'angolo non è di via Romagna. Là lì all'angolo, praticamente lì all'incrocio. Tutto quel pezzo lì sulla sinistra, tutto l'hanno buttato. Poi c'era il bar, la pasticceria e la passata, tutto l'hanno fatto. Beh, Davide ha fatto di sua famiglia, c'avevano un'attività, anche a Tintino c'avevano un villaggio, avevano le case, c'avevano una pasticceria, è andata a finire male, peccato. Non so, beh, purtroppo è così. È così, vabbè, pazienza. Non ho fatto il passo troppo grande, i rischi troppo grandi, alla fine non sono riuscito a rientrare con i soldi e hanno già pensato tutto. Ma siamo mai con lo strada la sì, sì, tramite il figlio sono andato all'inaugurazione quella che avevano fatto a Trentino. Diciamo, noi che lo conoscevo benissimo, ma già lo conoscevo, già rendiamo, era una buona persona. Sì, lui aveva voglia. Fortunati di salute tutti quanti con la famiglia. Vabbè, che ci vuole. Tu lo conosci di me? Ci capita di se c'è quel bar? No, ma no, io voglio. Andavo a giocare a biliardo, poi c'è tutto quanto penato di Gentaglia, ma la tanta di fame, no è che? No, e poi andavo a prendere la fede, quando prendevo la fede, la pizza, ci frequentavo lì. Un bel di lo fa. calci qua, ma mi sono guardato, non si può dire per ragazzi, il mezzo a rissa. Sì, ultimamente sì. Non c'è anche la moglie di Luciano, come cognata? Non la conosco, ma so chi è. È la moglie di Antonio, la conosci? Di Antonio, quello che ti stavo dicendo l'altro giorno, Gabriella. No, non la conosco, ma so chi è, Roberto. Antonio la conosco bene. Lui abitava più su, dietro Grassulis, Succis, così si chiama. No, ma più sì, la madre conosco. No, di Roma per conoscere un sacco di amici, c'è vero. Ancora c'è Gianni Rice. Gianni Rice. Ma in via cosa metà? In via. Ma, via Prati. No, adesso non abitano più di lì. E abitavano, non sai dove, in via Grazia delle Daghi, le minimissime, con le casette cose, con la mamma, la madre, che sono vengono frutta al coso, alle bancarelle. Vabbè, la madre è morta adesso, anche il padre è morto, Gianfranco, tutta questa famiglia. Non è buono ciò presente. Mica di Aliguno c'è sicuramente, una vita c'era dal monte. E il Cubetto, lo conosci Roberto Cubetto? Roberto Cubetto? No. Vabbè, forse sono più grandi di te, dai. Tu quanti anni c'hai? 21. 3-1? Papà. No, questi sono tutti più o meno dell'età mia, 41, 42 anni. Roberto Cubetto, però non mi è nuovo, Roberto Cubetto. E frequentavano tutti in quel bar del coso, che c'era la piazza dell'Elda, che si scendeva giù, adesso non so neanche se ci sia più, cazzo. C'era quelle specie di scalinate, la piazza dell'Elda alta. Quelle scalinate. Ma non c'erano le cose, le butti lì, le... cavolo si chiamavano, le... non so mi ricordo, quelle torrette, eh. Dili, tu forse non hai neanche conosciuto, le minimissime hai conosciuto, neanche di gas, specie di catapecchie. Ma? Dico, le hai conosciute? Sì. E Dili frequentava tutta la gente che abitava di lì, eh. Uno, due, tre, prova, perché cosa c'è, un problema di radio? No, problemi di latte, arriviamo intanto. Dai, ti attimo, vediamo un po', vai. 1, 2, 3, prova, 30, 40, 50. Come fai a sapere che sia questo Adriano? Come sbattendo, vicino a me. Ma vicino alla casa tua perché abita? O è forte il segnale? No, vabbè, i reali sono vicini. Dai, è un mio vicino che vai tu a casa tua, Antonio. No, Adriano. Poi c'è Franco. Più o meno siamo lì, Franco Adriano, là. E Adriano, una volta giù entrando, non l'avevo mai sentito però. C'è quello parlato, mi sembra. No, forse una volta l'ho sentito. Lo sento una volta che è successa una mezza discussione, che si era mezzo attaccato con Claudio, e buh, poi non l'ho più sentito. Ma vabbè, pure lui tecnico, cosa fa? È detto tecnico. Cavagava, vabbè, uia. E se adesso c'è Mario Mansell? Mario Mansell, ci sei, batti un colpo. Io che sono. Dove c'era quell'umore? Che bellino! La trombetta era. Ecco, Mariano, un coso, uno scorriso. No, era subito una fermata. Buonasera, ciao Ugg. Poi Andrius, buonasera anche a te. E beh, Andrius qui. Yeah, si qualifichi non di tutti, che senso, cioè non so che è il microfono da fine di agone. Ma la posso No, va bene, non interpretare. Tu non hai corretto te? Non te lo vedete. Un attimino. Che c'è una parecchia nel scaldamento. No, non pensate che sia fuori perché via. Un coso. Un warm up, tutto quello che so, per le tecniche. Deve andare almeno 20 minuti. Poi, guardate, che vi ascolto, se c'è un po' fa, c'è un angolo, ma c'è nessuno di solo un... come si chiama? Allora, c'è un po' di tutto. L'altro è Roberto, è nuovo, nuovo, fresco, fresco. KK, avanti Mario Mazzel. Questo Langoschi è sempre una scienza, vabbè, una scienza di risultati comunque, è vero, perché mi pare che me ne so un bel pochi, non perché davanti è al baracchino, però è un bel gamba, e me ne so un bel pochi. Veniva pure da casa in gamba, ma no, è il paesaggio e coazione, per carità, vabbè, non tutto è recessione purtroppo. Anda bene mela! Avanti! Ciao a tutti, no. Franco, del primo sentito. E qua, fa! Dimmi! Ti spoglio un attimino a 40. Oi, spaghetti croccoli, così la vita, oia, tutta storta e è dritta. Infatti, entra la stadio sul 40 ed entra ancora su 10, che... roba, qua è questione di... Siete troppo vicini. Chiamateci cosa che si porta Adriano, se uso il Midland lo sento tutti i canali, io non sento più nessuno. Ma se uso questo un po' mi difendo, diciamo, ora non mi dà tanto fastidio. Mi ha detto stanno rientrando sul canale 10, ho sentito. Ma te ti entra anche Franco, Luca? No, Franco no, negativo. Franco California, no Franco Delta 1. Sì, Franco, siamo vicini, vabbè, molto vicini, molto, molto. Ebbè, Mario Manzio, l'hai visto a Schumacher? No, non l'ho visto perché mi sono coricato un po' perché ero un po' appeso e dovevo recuperare, perché oramai, sai com'è, la vecchiaia mi ha fatto sentire. Dando una lezione di guida, che la cremata a tutti, prima le ha fatti scaldare, le ha illusi e poi fa tutto e ha cremato a tutti. Vabbè, io sono un bel sportivo in queste cose, io dico sempre questo, che il pilota è molto importante, però è molto importante pure la macchina, perché eravamo tanti anni che non vincevamo niente con la Ferrari, è arrivato Schumacher e abbiamo vinto, si può dire, tutto. Però anche gli altri si sono visti che quando avevano la macchina, avevano le condizioni chimiche di poter viaggiare, anche loro hanno fatto il loro dovere, perché non credo che a quelli il pilota conta tantissimo, però se la guida è la macchina, gli ti si rema, o che c'era problemi, o per quello, o per quell'altro, vedi bene che anche i grossi campioni ci sono ai vasi, non perché sia Schumacher, però tutti quanti, perché noi abbiamo visto anche le brutte figure che hanno fatto fare a Barrichello, che gli dicevano che doveva frenare perché doveva passare avanti Schumacher, che se vogliamo rallentare qualche uno in qualche sorpasso per fare qualche cosa, però non che la scuderia ci butti delle macchine in basso aereo, perché lì in tutto sportività allora non ce n'è. E vabbè, come ciclisti c'è il gregario e la prima guida. Il gregario e la prima guida è una cosa, però quando si tratta di correre, uno deve correre per conto suo, non deve correre per conto degli altri, capito? Perché se io sono in grado di arrivare a c'è il CB, vabbè, a te che conosci, a Claudio, vabbè. Facciano le cose, le butti lì, le... come si chiamavano, le... non so come ricordo, quelle torrette, eh. Vedi, vedi, tu forse non hai neanche conosciuto, le minimissime hai conosciuto, le hai di gas, poi c'è le catapecchie. Beh? Dico, le hai conosciute? Sì, sì, sì. E di lì frequentava tutta la gente che abitava di lì, era. No, poi gappa. Ma non lo è. 1, 2, 3, prova, perché cosa c'è, un problema di radio? Se c'è lui che trova allegria qua, se la fa con la tavola non lo conosci. A me non lo so, non credo. Poi c'è Franco. Però siamo lì, Franco Adriano, là. E Adriano, una volta giù entrando, non l'ho mai sentito però. Non l'ho mai sentito. C'è quello che ha parlato, mi sembra. No, forse una volta l'ho sentito, lo sento, una volta che è successa una mezza discussione. Poi c'è Franco. Però siamo lì, Franco Adriano, là. E Adriano, una volta giù entrando, non l'ho mai sentito però. Cosa fa? È tutto tecnico. No, guarda, vabbè, uia. E c'è adesso c'è Mario Mansell. Mario Mansell, ci si batte un colpo. Io che sono. Cosa fa? È tutto tecnico. No, guarda, vabbè, uia. E c'è adesso c'è Mario Mansell. Ho scorriso. No, era tutto una fermata. Buonasera, ciao Hug. Poi Andrews, buonasera anche a te. E beh, Landruski. E come indovinare? Non sono tanto avvezzo. Thank you. blu c'è esente, un chilo ho fatto, non mi interessa, la modulazione che c'è troppo potente, di cerca di un po' abbassarla, sicuramente anche Roberto ti ascolta così. Anche Roberto. Roberto Bandi. Ah, tu l'hai fatto. Ma ripeto, il segnale non interessa, puoi usare il guido in fuori, non c'è problema, no. Non mi crea problemi, la modulazione, a me che siamo vicini anche, ma abbassano leggermente già va meglio. Questo Langusti è sempre una scelta. in quel bar del coso, che c'era la piazza dell'Eda, che si scendeva giù, adesso non so neanche se ci sia più. Tappa. L'altro è Roberto, è nuovo, nuovo, fresco, fresco. KK. Avanti Mario Mazzer. Questo Ranguschi è sempre una scienza. Vabbè, una scienza di risultati comunque. Avvero. Perché mi pare che ne usa un bel poghi. Non perché davanti era al baracchino. Però è un bel gamba. E ne usa un bel poghi. Veniva pure da casa in gamba, ma allora il paesaggio con l'azione, per carità, vabbè, non tutto è rose fiori purtroppo. Anda a Bonanella! Avanti! Ciao a tutti, a Franco del primo sentito. E qua, fra! Dimmi! Risponti un attimino a 40. Oi, spaghetti e croccoli, così la vista, oia, tutta scotta e niente dritta. Aspetta, entra nel cardio sul 40 ed entra ancora su 10, grazie. Roba, qua è questione di... Dottica, di... Siete troppo vicini. Eravate in cosa che si porta Adriano, se uso il Midland lo sento tutti i canali, io non sento più nessuno. Ma se uso questo, un po' mi difendo, diciamo, ora non mi dà tanto fastidio. Ti ha detto stanno rientrando sul canale 10, ho sentito. Ma tu ti entra anche Franco, Luca? No, Franco no, negativo. Franco California, non Franco 31. Sì, Franco, siamo vicini, vabbè, molto vicini, molto, molto. Vabbè, ma abbiamo tutto, è cracker ballo a tutti. Vabbè, io sono un po' perché ero un po' appeso e dovevo recuperare, perché oramai, sai com'è, la vecchiaia mi ha detto, che non vincevamo niente con la Ferrari, è arrivato Schumacher e abbiamo vinto, si può dire, tutto. Però anche gli altri si sono visti che quando avevano la macchina, avevano le condizioni tecniche di poter viaggiare, anche loro hanno fatto loro. Abbiamo vinto, si può dire, tutto. Però anche gli altri si sono visti che quando avevano la macchina, avevano le condizioni tecniche di poter viaggiare, anche loro hanno fatto il loro dovere. Perché non credo che a quelli lì conti solo il pilota, sì, pure che hanno fatto fare a Barrichello, che gli dicevano che doveva frenare perché doveva passare avanti il Schumacher. Che è più basso. Ma sei in giallo, se vogliamo guardare la bravura del pilota, uno dovrebbe avere carta bianca, non che uno è primo e l'altro deve essere sempre secondo, perché non esisterebbe, capito? Per sportività non esisterebbe. Sì, uno può aiutare, vedi che il compagno è in vantaggio e poi rallentare qualche uno in qualche sorpasso, puoi fare qualche cosa, però non che la scuderia ci sbucci delle macchine in Massaeggio, perché lì... Sì, ho qualizzato leggermente il microfono verso gli acuti. Può aiutare, vedi che il compagno è in vantaggio e puoi rallentare qualche uno in qualche sorpasso, puoi fare qualche cosa, però non che la scuderia ci sbucci delle macchine in Massaeggio. perché lì in tutte sporche città allora non ce n'è. E vabbè, come ciclisti c'è il gregario e la prima guida. No, c'erano le scuse, le multi lì, le... come si chiamavano, le... non so, mi ricordo, quelle corrette, eh. Le multi. Presentati. Ti presentati, non c'è mica mi guardare da un di due io. E dimmi, dimmi. Tu forse non l'hai neanche conosciuto, le minimissime hai conosciuto, le hai gasa, le c'è di catapecchie. Ma? Dico, le hai conosciute? Sì, sì, sì. E di lì frequentava tutta la gente che abitava di lì. Gappa. Ma no, beh. 1, 2, 3 prova, perché cosa c'è? Un problema di radio? No, problemi di sbatte, la radio non entra. Se c'è lui che trova allegria qua, che la fa con la tavola non conosci. Almeno non lo so, non credo. Ma che cosa scusi, non mi ha mai un cazzo. Io sono una volta lo piego in due. Ma cosa è cazzo? Ma no, come? 1, 2, 3 prova, perché cosa c'è? Un problema di radio? No, problemi di sbatte, la radio non entra. Se c'è lui che trova allegria qua, che la fa con la tavola non conosci. Almeno non lo so, non credo. Poi c'è Franco. Però siamo lì, Franco Adriano, là. E Adriano, una volta azzurra entrando, non l'ho mai sentito però. Non l'ho mai sentito, c'è quello che ha parlato, mi sembra. No, forse una volta l'ho sentito, lo sento una volta che è successa una mezza discussione. Non è un interprete. Un interprete. Cosa fa? È tutto tecnico. Cava, cava, e roba, uia. E poi adesso c'è Mario Mansell. Ma come dice? No, era tutto una bernacchia. Buonasera, ciao Ugo. Poi Andrews, buonasera anche a te. E beh, Andrews chi? E chi è? E prova a indovinare. Non sono tanto in cose. Warm up, scusa, beh, sono per misure tecniche. Ciao, Ugo. Poi, Andrews, buonasera anche a te. E beh, Andrews chi? E chi è? E prova a indovinare. Non sono tanto avvezzo. Tu che sta sulla mia, quindi, ma capite, che è Ugo? Ma tu di là, tu che è? No, anche un vecchio, ma tu non lo scuola nel palestro. Ma c'è poco la radio che si è conosciuto l'altro giorno, Gabriella. No, non la conosco, ma sono fiero, beh, tu non la conosco, beh. Io abitavo più su, dietro via su, così si chiama. Sì, la Valle è conosco. No, di Roma conosci un sacco di tutta la cosa, alle bancarelle. Vabbè, la madre è morta adesso, anche il padre è morto, Gianfranco, tutta questa famiglia, 1,42 anni. Sono fatto questo, però mi è nuovo, ho fatto questo, ho fatto questo, con i spaghetti e croccoli. Così la vita, oia, tutta sporca, niente dritta. Esattamente, ma ti attivo, vero? Un po' fai. 1, 2, 3, prova, 30, 40, 50. Come fai a sapere che sia questa Adriana? Sì, quando dici, non dico tu, che senso, cioè, non so che hai la famiglia da Singandone. Ma la tua famiglia è la tua, è la tua, è la tua, è la tua. Che senso, è la tua, è la tua. Ehi, ha detto ammazza un po' adesso che stiamo in relazione, sei tutto cupo. Che cazzo, ci faccio picchio in questo momento, tu. Ah, va bene, siamo vicini, non va su. Gnocchi, gnocchi, gnocchi. Ecco, da poco la battaglia. Non lo so cosa abbassare. Cosa vuol dire? Boh, che ti muore, giovane. faccio un vostro stampa. Roberto Cubetto, Roberto Cubetto. Vabbè, forse sono più grande di te, dai. Tu qua, Claudio, Gianni, e tutta... Antonio, li tutti conosciuti col baracchino. Sì, ma Antonio, vabbè, sta fra... Noi non lo so presente. Mica di alcuno c'è sicuramente, una vita c'era dal monte. E il Cubetto, lo conosci Roberto Cubetto? Deve andare almeno 20 minuti. Poi, guardate, che vi ascolto, le tendenza Camario... Ma sai come si chiama? Ah, l'altro è Roberto, è nuovo, nuovo, fresco, fresco. KK. Un attimo di bianco, comunque Luca, lo so che Roberto, sì, che ho fatto la testimone del suo matrimonio. Avanti, Mario, avanti. Questo Ranguschi è sempre una scienza. Vabbè, una scienza di risultati comunque, è vero, perché mi pare che me ne so un bel pochi, non perché davanti è un baracchino. Ma in via cosa questa? In via... Ma, via Prati? No, adesso non abitano più di lì, e atto di Luciano. Via Franco, non guarda il baracchino, o sbaglio? Come si faceva chiamare lui? Occasione, per carità, vabbè, non tutto è rose e fiori purtroppo. Anda bene mega! Avanti! Ciao a tutti, no, Franco, del primo sentito. E qua, va! Dimmi! Ti sposti un attimino a 40. Sono di sottone a tutti. Roberto. Prima si erano messi in via. Ma di cosa non è chiuso di Luciano? Non c'è più, non esiste più questo qua. Ciao a tutti. A Franco, del primo sentito. E qua, va. Dimmi. Ti sposto un attimino a 40. Sono di sottone a tutti. Oi, spaghetti crocroi. Così la vita. Oia, tutta scotta niente dritta. Aspetta, entra Claudio sul 40 ed entra ancora su 10, grazie. Roba, qua è questione di. Dolcicchia, di. Siete troppo vicini. Eravate in cosa che si porta Adriano, uso il Midland, lo sento tutti i canali, io non sento più nessuno. Ma se si usa questo, un po' mi difendo, diciamo, ora non mi dà tanto fastidio. Ti ha detto, stanno rientrando sul canale 10, ho sentito. E poi ti entra anche Franco, Luca. No, Franco no, negativo. Franco California, no Franco Delta 1. Sì, Franco, siamo vicini, Robe, molto vicini, molto, molto. E beh, Maria Udo è prima da tutti. Vabbè, io sono un po' perché ero un po' appeso e dovevo recuperare, perché oramai, sai com'è, la vecchiaia mi sa... Però sta finita in guardia, ma giù per secondo. Importante, però è molto importante pure la macchina, perché eravamo tanti anni che non vincevamo niente con la Ferrari, è arrivato Schumacher e abbiamo vinto, si può dire, tutto, però anche gli altri si sono visti che quando avevano la macchina, avevano le condizioni tecniche di poter viaggiare, anche loro hanno fatto loro. Gnocchi. Abbiamo vinto, si può dire, tutto. Però anche gli altri si sono visti che quando avevano... Vedi, tu forse non hai neanche conosciuto, le mie visite, hai conosciuto le di gas, specie di catapecchie. Ma? Quindi sono i più bassi. No, sì, grazie. Ti amo, una bella giornata, abbiamo dato un buon mondo. Se vogliamo guardare la bravura del pilota, uno dovrebbe avere carta bianca, non che uno è primo e l'altro deve essere sempre secondo, perché non esisterebbe, capito? Per sportività non esisterebbe. Sì, uno può aiutare, vedi che il compagno è in vantaggio e poi rallentare qualche uno in qualche sorpasso. Sono vicini. Dai, non mi vicino che vai tu a casa tua, Antonio. No, Adriano. Deve essere sempre secondo, perché non esisterebbe, capito? Per sportività non esisterebbe. Sì, uno può aiutare, vedi che il compagno è in vantaggio e poi rallentare qualche uno in qualche sorpasso, puoi fare qualche cosa, però non che la scuderia ci sbucci delle macchine in bassaeggio. Perché lì ho qualizzato leggermente il microfono verso gli acuti. Tutto lì. Ciao Luca. Poi Andrew, buonasera anche a te. E beh, Landuski. No, c'erano le cose, le butti lì, le. Cavolo si chiamavano, le. Non so come ricordo. Quale corrette, dai? Le butto. Presentati. Ti presentato invece mica mi guardare da un dito io. E dimmi, tu forse non hai neanche conosciuto, le minimissime hai conosciuto le anche di gas facendo in buttata a pecchie. Ma? Dico, le hai conosciute? Sì. E di lì frequentava tutta la gente che abitava di lì. No, raga, come tu è? Se c'è lui che trovate allegria qua, se la fa con la tavola non lo conosci. Ormai non lo so, non credo. Tutto qua è così, scusi, non è mai un cazzo. Io se non trovo il pelo e lo piego in due. Spacco la razza e cazzo. Parlano, beh. 1, 2, 3, prova, perché cosa c'è? Un problema di radio? No, problemi di latte, Adriano entra. Se c'è lui che trovate allegria qua, se la fa con la tavola non lo conosci. Ormai non lo so, non credo. Il latte. Il latte. Ma non dico a lei, fatto. Non a me, fatto. Non c'è Franco. Più o meno siamo lì, Franco Adriano, dai. E Adriano, non sta solo entrando, non l'ho mai sentito, però. Che se l'aveva sentito? Che cosa hai parlato, mi sembra? No, forse una volta l'ho sentito. Lo sento una volta che è successa una mezza discussione. Non ha un interprete. Tu hai un cosa fa? Le tue picchi sto. No, ma no, è roba tuya. E c'è adesso c'è Mario Mansell. Io. Quindi, cose lontano, quindi la eccezione. Non ha un interprete. Cosa fa? Le tue picchi sto. Cavaga, è roba tuya. E c'è adesso c'è Mario Mansell. Ho corriso. No, era proprio un'altra parlante. Buonasera, ciao Ugo. Poi Andrew, buonasera anche a te. E beh, Landuski. Che è un po'. È l'unica che un filtro ho detto in me. E come indovinare? Non sono tanto avvezzo. Ho tutte le emulazioni su che cosa della mia. Ma capite, che è Luca? Ma tu mi hai Luca, No, non ho fatto neanche un becco. Ma tu non hai scritto un bel palestro. Ma so povera dove sei. Allora, un bulbo lo sanno che so cosa è da un dito. No, volevo sapere chi è Adriano. Però dietro via Sulcis, così si chiama. No, ma qui si sì. La mano è conosco. No, di Roma ti conosci un sacco di... Non ho fatto neanche un becco. Ma tu non hai scritto un bel palestro. Ma so così si chiama. No, ho visto, sì. Ma non le conosco. No, di Roma te conoscevo un sacco di gente. Ma quando c'è un scaldamento, no, non pensate di un sacco di porcherie. No, ti attivo, vero? Un po' vai. 1, 2, 3, prova, 30, 40, 50. Come fai a sapere che sia questa Adriana? Sì, quando mi dici, la dico tu, già senso, cioè, non so già che mi entra a me le ferie, gli altri mi raggono. Prova, perché cosa c'è, un problema di radio? No, problemi di latte. mancare di forza che c'era gente. Tu che tieni? Ma specificare non la manco un'anima. Devo fare regolazioni più precise, poi va bene anche così, non ti preoccupare. Mario! Mandami tutto! Presentati! Ti presentato di questo mica mi guardare da un dito io! Non scusami! No! Ma Marco, io lo conoscevo, ma che era un fuoriclasse con la moto, faceva motocross quando eravamo ragazzi, mi veniva a fare regolazioni più precise, poi va bene anche così, non ti preoccupare. Mario! Mandami tutto! Presentati! Ti presentato di questo mica mi guardare da un dito io! Allora, quello ma lo sanno le so guardare da un dito! No, volevo sapere chi è Adriano? Italia, allora, ma tanto di fame, no? Che... No, e poi andavo a prendere la fine, quando prendevo la fine, la pizza. Non so, Paoletto lo conosci? Ma come? Oh, lì vedo un camionista. Ah, no, negativo. D'accordo, è così. Il giorno che ti trovo ti muccola. Cosa fai? Tu mi hai detto Luca, cosa mi fa? Boh, ti muccolo. Tu va, vuoi tutti i ganti, non vuoi poco fuori di gamba, vuoi poco in gamba. Ma gamba. Non la prendi un interprete. Un interprete? Bene. Ma già lo so che Antonello, non lo so. Perché veniva molto spesso, la mettava qua vicino a casa. Lo va, vuoi tutti i ganti, non vuoi poco fuori di gamba, vuoi poco in gamba. Ma gamba. Non la prendi un interprete? Un interprete? Cosa fai? Tu mi hai detto Luca, cosa mi fa? Boh, ti imbuccolo. Cosa vuol dire? Boh, ti imbuccoreggio a me. E ti ho detto frampa. È meccanico, non molto meccanico, lo conosci? Ma non molto lo conosco. Lo conosce da piccolino, Robert. Deve vedo scambiare almeno 20 minuti. Poi, guardate, ti ascolto. Il Pinduca, cioè Mario, ma sai che non mi ricordo come si chiama? Allora, c'è il Pinduca. Cappa, l'altro è Roberto, è nuovo, fresco. Cappa, cappa. Massimo di Bianco, comunque è un cambio che si è detto. Sai che ho fatto tantissimo nel suo matrimonio. Ma ti fa? Perché? Non già mi urla, non lo sapevo, guarda. Ah, una cosa che sento. Cappa. L'altro è Roberto, è nuovo. Fresco. Cappa, cappa. Massimo di Bianco, comunque è un cambio che si è detto. Sai che ho fatto tantissimo nel suo matrimonio. Avanti, Mario, avanti. Questo Langurski è sempre una scienza, vabbè, una scienza di risultati comunque, è vero, perché il mar, la pasticceria e la pasticceria, tutto lei ha fatto. Beh, da fine ha fatto di sua famiglia, c'erano un'attività in guardione, per carità, vabbè, non tutto è... Rose e fiori, purtroppo. Anda bene, vega! Beh, avanti. Ciao a tutti. A Franco, del tuo ho sentito. E qua, fra. Dimmi. Ti sposto un attimino al 40. Roger, salutami a tutti. Io. Via, l'ho messo. Prima c'erano bittin, via. Ma di cosa non è chiuso di Luciano? Non esiste più questo qua. Ciao a tutti. A Franco, del tuo ho sentito. E qua, fra. Dimmi. Ti sposto un attimino al 40. Roger, salutami a tutti. Io. Ci frequentavo lì.